Allora, Didi, oggi sappiamo, ma sono le elezioni, perché c'è questa cerimonia per Sergio Zavoli, e gli devo andare, cioè, magari devo andare anche la prima ora, ma non volevo saltare, dato che avevamo appuntamento qua con noi, poi devo andare a pranzo, queste cose qui. E quello che volevo dirvi è che però adesso noi siamo parecchio indietro a questo punto, perché abbiamo dovuto saltare varie ore, quindi siamo in condizione di non finire il programma che ci eravamo previsti, per cui dobbiamo qua primum recuperare. E allora, come abbiamo fatto da un'occasione, dobbiamo scegliere, io già volevo farlo quest'oggi, non ho avuto possibilità, un altro paio di ore, adesso prima e poi dopo, dovremmo recuperare almeno 4 ore sostanzialmente. Quindi giovedì vi dirò le ore che però riuscito a recuperare. Chiudete i telefonini possibilmente, che avete qualcuno acceso, ci deve essere qualcosa, perché guardate un po' cosa avete i telefonini accesi. Ce l'ha acceso lei? No. C'è qualcuno, ce l'ha? No. Va bene. Allora, vi ricorderete che l'altra volta abbiamo parlato di questo problema molto importante e interessante, che è la visione che ha della letteratura Valéry, una visione negativa. E abbiamo detto che cos'è la letteratura ai suoi occhi. La letteratura è, ai suoi, possiamo dire anche ai nostri occhi, la letteratura è sicuramente simulazione del reale. A questa simulazione del reale uno accede con dei motivi precisi, che sono quelli di dimenticarsi un po' le tristezze, le ovvietà, le noie, le banalità della vita presente, e quindi attraverso la letteratura dimentica e comincia anche a sognare. Immaginate qual era la piena del canetto, questa cosa qua. Immaginate quale poteva essere la condizione di vita di una signora dell'Ottocento che si dedicava a un romanzo per fuggire in una sua sfera di desideri e di esaudimento dei desideri stessi, e quale fosse la sua solitudine. Se vi parlo di una signora, non è a caso, perché il romanzo, per esempio, era dedicato alle donne. Nell'Ottocento, agli inizi, il romanzo era assolutamente l'equivalente a quello che può essere oggi la televisione, con le telenovela che ci sono ancora, cioè non c'è nessuna differenza. E quindi, come nelle telenovela, per esempio, finisce, da quello che io so, perché seguo, così è capitato, finisce con una tasta, con una voglia di sentire la puntata precedente come sarebbe stata, allo stesso modo lei prende il telefonino, scusi signorina, perché ce l'ha con sé, perché purtroppo io credo che sia un po' questo il fatto. Quando spegnete il telefonino mi può questa cosa. E, dicevo, queste signore erano quindi le destinatarie naturali, erano le destinatarie naturali dei romanzieri, e quindi insomma la letteratura davvero si profilava come via di fuga. C'era anche un altro motivo, tra quello del dimenticare e sognare, quello per cui ci si accostava alla letteratura, ed era quello di contemplare naturalmente la bellezza della forma, del modo in cui ci si esprimeva, in cui ci si riusciva a esprimere. Tutto questo naturalmente in un piano di finzione del reale, immaginazione che le cose che si descrivevano fossero reali. Ma ecco il punto, la realtà è diversa da quella che rappresenta la letteratura. In che senso è diversa? È diversa perché in un romanzo tutto è ordinato, no? In un romanzo tutto è significativo, non solo è ordinato, ma è significativo. È ordinato appunto tale che potete leggerlo, potete seguirlo, lei lo prende appunto, lei segue in un modo episodico. Ma che cosa è qua? È la forma mente che ho cambiato. Dunque, dicendo? Un romanzo di Nato è ordinato. Che romanzo è ordinato? Ma è determinato ma però noi possiamo seguire la storia. Posso. Il romanzo ha dei significati, ma la vita vera non è ordinata. E noi ne possiamo avere esperienza di questa, la nostra vita vera, ogni giorno, del fatto che non sia ordinata, che sia caotica. Ma anche guardandola retrospettivamente, guardando per esempio le storie che abbiamo avuto di amore, vediamo che non c'è stato un ordine, vediamo che c'è stata una ripetizione, un caos, dei raddoppiamenti, no? Vediamo che spesso delle esperienze importanti ci sono passate sopra la testa senza che riuscissimo a coglierne il significato. Non solo, ma la vita vera è impoetica. La vita vera è impoetica. Quando voi rialzate dal letto al mattino, ancorché siate nel fiore della giovinezza, e quindi abbiate molti motivi per svegliare, ma magari non è fatto così, avete di svegliare con la bocca di merda, proprio all'idea di affrontare la giornata, potrebbe essere anche quello, non è niente, insomma, no? Ma sostanzialmente voi avete delle aspettative. Allora, durante la domanda voglio dire questo, avete delle aspettative, ma sostanzialmente la vita è quella. La vita di che cosa è fatta? È fatta degli obblighi, è fatta dei tram che prendiamo, delle strade che percorriamo, tutti i giorni. L'ho scritto nel mio libro sul mattino, che la vita forse è un insieme di strade. Perché pensate quante strade noi copriamo con le nostre suole di scarpe ogni giorno. Da casa a un certo posto, all'università, a trovare un amico e via in questo passo, eccetera. Quindi la ragione per cui la letteratura degli occhi di Valeria è sbagliata è perché non rappresenta adeguatamente la realtà. La mia vera obiezione, queste sono parole sue, la mia vera obiezione contro la letteratura è la vita. Il fatto che la letteratura presume, vuole, tende a riprodurre la vita, ma non ci riesce. Non ci riesce e è, come dire, tangente alla vita. No? Io ho avuto una storia di lutto spaventoso, cerco di raccontarla questa storia, ma le parole non riusciranno altro che in modo tangenziale a rappresentare quello che io voglio. Vabbè, questa è una prima considerazione. Da questa considerazione deriva quindi che la letteratura, in questo suo errore, no? In questo suo errore di prospettiva, la letteratura non ha coscienza. Perché la coscienza, che cosa è? La coscienza vuol dire invece l'adeguatezza, l'essere a contatto con le cose. Quindi la letteratura diventa un simbolo di incoscienza, no? Quando io sono cosciente sono a contatto delle cose. E qual è il grande termine antinomico della coscienza? La metafisica. Quindi la letteratura è metafisica. Va bene, la letteratura non è, non riesce a riprodurre adeguatamente la vita, quindi la letteratura non è crescente, quindi la letteratura è negativa. Adesso consideriamo una cosa che forse avrete già sapere in tempi passati, ma che comunque è utile ricordare, cioè una idea che Mallarmé aveva della letteratura. Come voi sapete, Mallarmé è stato il grande punto di riferimento letterario, la sua formazione, di Valéry. È stato proprio l'allievo, diciamo così, il discepolo di Valéry. Mallarmé distingue, questa distinzione essenziale, due stati della parola, come li chiama. Uno è l'età brut, lo stato brutto, e l'altro è l'età essenziale, lo stato essenziale. Cos'è lo stato brutto? Lo stato brutto è lo stato in cui si trova la parola quando deve servire semplicemente a una comunicazione di dati, no? Se io dico chiudi la finestra, io qui voglio semplicemente comunicare a X il mio desiderio che la finestra sia chiusa. Se io dico ho freddo, voglio darti semplicemente una comunicazione di un dato di fatto oggettivo. Allora, per queste comunicazioni non serve particolare cura, serve semplicemente poter rappresentare quello che noi sentiamo, tutto qui. ma non c'è nessun fine artistico. Se io dico chiudi la finestra, voglio semplicemente che l'interlocutore dei miei desideri vada a chiudere la finestra. La lingua che ci serve per vivere, per comunicare, è una lingua allo stato brutto. Qual è la lingua essenziale? La lingua essenziale, che non ci serve affatto per vivere, ma ci serve per rappresentare a fondo la realtà, per andare nel segreto, nel cuore della realtà, è una lingua che ha due caratteristiche. La prima caratteristica è che è una lingua che ha recuperato le sue radici, le sue origini. Capite bene? Queste origini, queste radici, sono spesso rintracciabili negli etimi della parola. Ma gli etimi possono anche essere finti, nel senso che stiamo parlando di una verità profonda della parola. Verità profonda che le parole perdono nel corso del tempo. No? Mi seguite bene? Vi faccio un esempio, il primo che mi sta venendo in mente. Quando io ero ragazzo, ricordate questo esempio che vi dico, trovai un libro che mi appassionava moltissimo, poliziesco, c'è giallo sostanzialmente, di Gaffer, ma di un certo livello, trovai questa espressione. Un Gaffer rivolto, sono nomi che poi rimangono in fitti nella mente, ma come mai? Avete chiuso tutti il telefonino? E cosa dovete? La vita è dura, va bene. Trovai scritto, era il Gaffer, il libro si chiamava Ore di Speranza, e ha fatto un film, era abbastanza noto, ben fatto. Uno si rivolgeva all'altro, il Gaffer capo si rivolgeva all'altro, che era un uomo truce, truculento, e gli diceva rubbish, questo era il suo nome, non far capire. Allora l'altro diceva come una cosa del genere, e lui ribadiva non far capire. La mia ingenuità di bimbo era molta, ma non era solo una questione di ingenuità, era il fatto che io vivevo in un mondo linguistico molto diverso da quello attuale, per cui ho pensato, nella mia ingenuità di bambino, che quella parola fosse sbagliata e che, avevo 9 anni, intendiamoci bene, quindi una cosa ingiustificabile, pensai che avesse sbagliato la parola casino, che voleva dire non fare l'asino, è l'apostrofo asino. Però mi sono sbagliato 2 volte, no? Avendo chiesto a mia madre, ricordo, che cosa voleva dire questa strana parola, mia madre disse che era una parola impronunciabile. E io venni a sapere per vie traverse che si trattava di un luogo dove delle donne si vendono sessualmente agli uomini. Naturalmente io non sapevo nulla di che cosa voleva dire questo, vendersi sessualmente. La parola casino significava solo questo. Solo questo. In Italia nel 58 si chiusero i casini, cioè le case pubbliche. La parola casino, col significato che noi troviamo nel vocabolario italiano, cioè significato di chiasso, rumore, disordine, eccetera, è venuta dopo. È venuta dopo. Ma se tu cercavi un dizionario dell'epoca casino in questa sezione, non lo trovavi. Allora, qual è l'idea di Madame? L'idea è che il linguaggio, ho citato una parola triviale, che può essere fatto più triviale, anche questo è molto interessante, perché le parole triviali, impronunciabili, poi diventano del tutto normali, assunte nell'uso comune, no? E, per dire che una lingua si evolve nel tempo e si rischia di perdere il senso della lingua stessa, se noi non andiamo in cerca delle sue radici profonde, che sono etimologiche, ma non sono etimologiche. Sono proprio, hanno a che fare queste radici profonde con il clima della parola, clima che può essersi pietrificato, può essersi dissolto nell'uso quotidiano. Va bene? Allora, questa è la prima cosa che Mallarmé dice, è anche questa qui. Bisogna ritrovare le parole nel loro stato essenziale per poter fare arte. E poi aggiungo un'altra cosa molto interessante, molto interessante. Bisogna che le parole, e anche questo fa parte dello stato essenziale, non indichino qualcosa di preciso e di univoco, ma insomma che lasciano evocare. Allora lo stato essenziale viene composto da due ordini di fattori: parole che abbiano ritrovato la loro origine, il loro clima di origine secondo il loro etimo, e due, parole che abbiano uno spettro semantico molto vasto, che lasciano evocare. Ci siamo anche qui? Bene. Lei sta seguendo? Mi sono sempre chiesto se poi vedremo. Con questo tipo di linguaggio, di stato essenziale, Mallarmé a questo tipo di linguaggio ricorre per immaginare quello che deve essere per lui l'opera d'arte, cioè il libro, quest'opera che vuole scrivere. Che cos'è il libro? Il libro è un'opera in cui si racchiude il significato più profondo del mondo. Ora voi dite, naturalmente avrete motivo di dire che questa è una gran sciocchezza, perché cos'è un'opera che racchiude il significato profondo del mondo? Però se ci pensate un momentino, vi rendete conto che la cosa è meno sciocca, anche perché viene dalla professione dell'intelligenza di Mallarmé, di quanto possa sembrare. Cosa vuol dire un'opera che racchiude il significato del mondo? Vuol dire un'opera che, dal nostro punto di vista, dica le cose più importanti che abbiamo imparato nella vita. No? Le cose che noi abbiamo imparato nella vita del Zarco non sono ben diverse da quelle che abbiamo imparato a Trento, quelle che impariamo in seguito. La domanda che una persona adulta si fa, per un preannuncio questo ancora, i ragazzini famosi con le gocce di latte sulle labbra, la domanda che si fa una qualunque persona adulta, cioè dalle persone più letterate evidentemente a quelle letterate, è ma che significato ha la mia vita? No? Che significato ha avuto? Non avendo risposta, molte persone sono colte dalla, vediamo la parola orrenda, triviale che si usa tutto lì, dalla depressione o dalla disperazione. Da dove nasce questa disperazione, depressione e poi disperazione? Dal fatto che ti sembra che la tua vita sia stata assolutamente confusa. Una volta ricordo una persona mi disse, ma la nostra vita è come un tappeto persiano. Il tappeto persiano ha un disegno meraviglioso di sopra, no? Però di sotto è un ammasso di fili. Noi vediamo soltanto l'ammasso intricato di fili, no? E non vediamo il disegno che sta sopra. Ecco, non sono d'accordo. La nostra vita è un ammasso di fili che ha un suo senso. Ecco, bisogna trovare questo. Il libro si propone per l'appunto, lo direi in questo modo, di raccogliere il senso dell'esperienza del mondo che noi abbiamo acquisito. Allora, vi ho parlato dello stato brutto della parola, dello stato essenziale della parola, vi ricordate quei due termini, etimi e parole che evochino, quindi non messaggi precisi, è chiaro il discorso, e vi ho detto che con questo armamentario di stato essenziale si può concepire il libro, no? Che è un'opera che contenga i significati del mondo secondo naturalmente la prospettiva che ha raggiunto in quel momento l'autore. Ebbene, qual è il sostegno quanto segue nella sua immane ammirazione per Mallarmé? Dice, quello che dice Mallarmé per quanto riguarda il libro è una sciocchezza. Perché è una sciocchezza? Perché è metafora. Perché non si può dire che un'opera, non si può costruire un'opera che raccoglie i significati che ha avuto per noi la vita. Questi significati mutano continuamente, sfuggono, sono difficili da individuare in ogni caso. Quindi questo libro perfetto non lo vedo realizzabile. Quanto poi al fatto di usare una parola, usare un linguaggio nel suo stato essenziale, cioè lasciando lasciando aperti messaggi, lasciando, ritornando agli etimi della parola, eccetera. Allora, e Valerio dice qualcosa. Bene, quindi queste sono le regole, lasciare aperta la parola, non mettere messaggi precisi, no? Va bene. Ma quando uno ha imparato queste regole, perché deve applicare? Perché deve fare questa grossa fatica che è la letteratura, scrivere poesie, scrivere romanzi? Noi sappiamo che le regole sono queste, occupiamoci di altre cose, di che in particolare? Di costruire nuovo pensiero, altrimenti è come se dovessimo ripetere senza tregua l'applicazione di queste regole. Ha senso la critica di Valerini? Diciamo così che questo dibattito sembra un po' astratto, avete ben chiaro, però voi vedete molto chiaro, potete poi dire alle dati, eccetera, astratto il dibattito, che ha detto anche lei all'inizio, con cavolo, il dibattito deve essere, il dibattito è sempre astratto, allora, quello è chiaro il punto. Allora, che punto però su cui Valerini e Valerini possono andare d'accordo? Che avete pensato quello che ha pensato Mallarmé, cioè di ridurre la parola a queste condizioni di stato essenziale, è indubbiamente un modo per impadronirsi della letteratura, no? Per impadronirsi della letteratura e del linguaggio. Quindi è un procedimento di ragione, di ragione. E la ragione, voi sapete, è amatissima, adoratissima da Valéry, no? Laddove c'è la ragione, non c'è la metafisica. Nella fattispecie la ragione come funziona? Funziona diventando una sorta di tecnica per scrivere. Quindi se la mettiamo in questo modo, allora l'idea di Mallarmé di costruire una letteratura fatta in questo modo diventa accettabile. È una letteratura, quella che si inventa Mallarmé, basata sulla ragione, e cioè che è diventata una tecnica. No, partendo dalla ragione, Mallarmé ha reso la letteratura un fatto di tecnica. La tecnica è controllabile, quindi da questo punto di vista la tecnica può essere accettata. La letteratura può essere accettata. Chiaro? Quindi, se si mettono le cose in questo modo, che tutto quello che ha detto Mallarmé è per rendere razionale la letteratura, allora però bisogna dire che è tecnica e le cose funzionano. E le cose funzionano, possono essere accettate. Aggiungiamo un'altra cosa, che la letteratura diventa una forma di coscienza, pensate un po'. La letteratura, che di per sé è incoscienza, ove sia fatta secondo le regole della ragione, cioè della tecnica, diventa coscienza. La letteratura diventa, a questo punto, se fatta secondo la tecnica, diventa una sorta di mezzo per combattere la metafisica. Quindi di per sé è metafisica, ma governata dalla ragione, diventata tecnica, diventa un mezzo per combattere la metafisica e diventa una manifestazione della coscienza. Della coscienza. Ecco in che senso quindi l'opera d'arte è accettabile da Valéry, in quanto manifestazione di coscienza. Ma ciò può avvenire solo quanto sia stato assunto che la letteratura la si fa con la ragione e quindi con la tecnica. Diventa tutto chiaro. Chiaro tutto? Bene. Naturalmente c'è un dissidio di fondo tra Valéry e Mallarmé che permane, e il dissidio è questo. La frase chiave di Mallarmé è: tout le monde est fait pour aboutir à vivre. Tutto il mondo è fatto, esiste, per andare a finire un libro. Cioè il libro è la cosa per cui più. Quindi il libro è il fine per Mallarmé, capite? Noi cambiamo, lei campa per andare a leggere un libro. E se il libro non sarà mai scritto? Può darsi una chiodata in testa e non ce la vive. Ma in realtà lei capisce che la sua funzione, vivere per andare a finire nel libro ideale che qualcuno scriverà, è una funzione importantissima. No? Mi seguite? Lei mi segue? Don Abbondio, uno stronzo come Don Abbondio. La tua vita, quanto contava? andato a finire il mio libro. A chi dirà, ma per esempio, Alessio, no? Alessio, finora nessuno l'ha preso come modello per un personaggio di un libro. Uno camminiamo in modo sottile e sofisticato con discorsi difficili. E se nessuno lo prenderà mai, allora l'esistenza di Alessio non conta nulla. E no, perché possiamo ragionare in questo modo, che in qualche modo Alessio fa parte di un disegno universale. È inutile che lei guardi con questo tono di disprezzo il nostro Alessio, degli occhi di disprezzo, invece, fa parte di un disegno universale. Perché? Perché Alessio sta occupato, oserei dire, dei cestini di quadrati. È un certo punto. Quindi, immaginiamo questo modo. Immagini l'ossigeno da 180, se ci fossero 300 persone, uno per spiegare. Meno c'è gente, uno più ossigeno da respirare. Chiaro? Nella metro, in un giorno, all'ora di punta, verso le 6:30 di sera, non si respira, c'è poco ossigeno, quindi. Alessio esiste e consuma. Consuma. Mangia, espresa tutta una serie di funzioni, sulle quali naturalmente non ci soffermiamo. Parte del genere di cui non si sono dispresa, ma certamente ha contatto con l'ambiente. È inquinante Alessio? In qualche misura sì, qui, questo è un dubbio. Ma diciamo che se è inquinante vuol dire che esiste. Non solo. Ma c'è uno spazio di tempo che è l'anno in cui, dall'anno in cui è nato il nostro Alessio, che è il 82. Ah, 2500 quando Alessio deciderà di andarsene, no? Questo spazio è occupato da lui, quindi lui occupa un certo luogo e un certo tempo. Dio, coordinate cartesiane, lui occupa una sezione di spazio-tempo e non gliela toglie nessuno. Non gliela toglie nessuno, ma non gliela toglie nessuno. Questo per dire che il piccolo Alessio, si può usare questa cosa, sia importantissimo, perché è un tassello dell'universo. È un tassello dell'universo importante quanto un altro tassello che magari ha più rilevanza storico-politica di lui. Pochi conoscono Alessio, molti conoscono Berlusconi, ma in realtà, se vi intendete, come Berlusconi fa parte del piano dell'universo, così Alessio fa parte del piano dell'universo. Stiamo trattando una questione molto interessante. Come ugualmente Alessio faccia parte del piano dell'universo. Come è arrivato a questa cosa? Da che cosa ho partito? Quindi Alessio realizza il disegno di Mallarmé in modo straordinario. Perché vedete che tutto il mondo, quindi anche Alessio, è fatto per finire l'ideale libro. Beh, lo incontrato un giorno come dire, che è entusiasta della sua presenza, di un tratto del suo carattere, eccetera, la mette nel piano libro. In fondo, lei e Beatrice non avete nessuna differenza. Beatrice ha finito il libro? Lei no, ma potrebbe finire. Avete capito cosa vuol dire che tutto è fatto per il libro? Cioè il libro è il trattato di posizione opposta, è quella invece di Valerino, il quale dice gli altri fanno libri, annotatela, io faccio la mia mente. Cioè per lui il libro è uno strumento dello sviluppo mentale, uno strumento per sviluppare. Laddove per Mallarmé il libro è la parola ultima, la conclusione in cui affluisce la piccola vita di Alessio o la piccola vita di Berlusconi, il libro è la parola ultima, invece nel caso di Valéry il libro non è la parola ultima, è solo uno strumento per diventare più cosciente. La cosa importante è il diventare cosciente, è il fare la propria mente. In questo piano di coscienza possiamo finalmente adesso prendere il nostro libro, apritelo, l'avete acquisito, non è questa parola, non ci sono problemi, e vedremo alcune cose molto importanti dello scritto che poi vedremo, e dovete prendere a pagina 156. Lei sarà il libro? Lei non si recita. No. Allora guarda la sua giovane. Allora, a pagina 156 il frammento di pensiero che lo leggiamo riguarda, e a metà della pagina dice, finita con un guardo il travaglio literario, lo vedete? Adesso lo traduco direttamente. Ho finito per concepire il lavoro letterario in un modo che mi separa dai letterati e dalla pratica. Vedrete tutti questi pensieri e carriere, che come vi dico si estendono per 27.000 pagine, eccetera, questa è un'antologia, una lezione. Questa è una lezione, noi facciamo un'antologia della lezione, vedrete un linguaggio naturalmente frammentario, letterario ma anche frammentario, perché sono considerazioni che lui faceva per se stesso. Mi sono posto, dice Valerio, al di là delle parole, imponendo loro delle condizioni preliminari, e volendo chiamarle a me queste parole, non attraverso il caso, non per caso, cioè il soggetto ha, non attraverso un posto, cioè il soggetto agente in me, ma restato libero, senza legarmi a nessuno, senza credere che l'uno, uno sia necessario, uno di queste parole sia necessario in un tale posto, in un posto preciso. Bisogna conservare tutto il tempo l'indipendenza dalle proprie parole. Rileggiamo bene questo, sarà questo pensiero, insomma, scritto naturalmente, ma in un modo che vedremo spesso. Mi sono posto al di là delle parole, cominciamo a dire questo, mi sono posto al di là delle parole imponendo loro delle condizioni preliminari, e volendo chiamare queste parole non con il caso, cioè, ecco, cioè il soggetto agente in me, ma è stato, cioè lui vuole dire questo, che si è messo in modo tale da non identificarsi con le sue parole. Chi si identifica con le proprie parole è limitato da uno scrittore mediocre si identifica con le proprie parole. Facciamo un caso. Facciamo un caso. Di uno scrittore, da questo punto di vista, emblematicamente mediocre, tra gli scrittori potenti, Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio era uno che scriveva con 40.000 parole. Pensate, tanto per avere un'idea di statistica, che io voi parlerete con 6.000 parole parlato in italiano, io parlerò con 9.000 e scrivo a 12.000, perché capirci. Gaza scriveva con 20.000 parole, ma Leopardi scriveva con 1.800 parole. 1.800 parole. Quando Annunzio scrive, caso abbastanza eccezionale, con 40.000 parole, e dice per esempio che il tordo zirla, no? Che i vermi di uccelli sono nominati uno per uno, non dà affatto l'idea di porsi al di qua delle parole, ma di lasciarsi, come dire, suggestionare dal fascino delle parole che usa, di essere schiavo delle proprie parole. Lui dice, questo è il primo principio per lo scrittore. Lo scrittore non deve essere subito delle proprie parole, cioè deve sapere, deve essere in grado di poterle spostare, di poterle cancellare, di poterle dimenticare. Lo scrittore che non è in grado di fare questo è uno scrittore mediocre. Io mi sono posto al di là delle parole. imponendo loro delle, alle parole, delle condizioni preliminari. Queste condizioni preliminari alle quali lui non fa cenno sono proprio queste, il fatto che siano spostabili. Spostabili, no? E direi che questa è un po' l'euforia dello scrivere, nel senso che la vita che c'è intorno, con le persone che ci sono intorno, non sono spostabili. Non sono spostabili. Lei ha dei genitori. Quelli sono. Non sono spostabili. Se lei un giorno volesse spostarsi, non può. La casa è quella, non la sposta. E direi che il suo carattere non lo sposta. Lei è collega. Questo non lo sposta. Ha capito bene? Lei è un ragazzo, eh? Non lo sposta. Anche lei dirà, mica è vero. Lo caccio, ma non lo sposta. Semplicemente ha deciso di non stare più insieme, ma non lo sposta. Anche lei dice, ma io per farle vedere che lei sbaglia, l'ammazzo, lo metto sotto terra, ma non l'ha portato. Sta sotto terra. Va bene? Ma adesso io sono davanti alla tastiera del computer e ho scritto ella lo guardò con uno ella lo guardò con occhi molto intensi. Poi dico, ma questo avverbio molto mi fa un po' gestire. E allora torno indietro, siccome tutti usano il computer sulla tastiera del computer, e tolgo molto. Dopodiché mi sto salvo. Per cui quel molto non c'è più. Le parole le imposto, avete capito? E ai tempi in cui non c'era il computer, con un lieve tratto di penna lo annullavo. Io potevo costruire cose straordinarie con la parola, no? Potevo anche mescolare alla parola dei disegni. Noi abbiamo delle cose meravigliose di Dostoevskij, in cui c'è la pagina dei demoni, che viene in mente in questo momento, in cui c'è il testo del tema, e poi ci sono dei disegni splendidi che vengono fatti tra le parole, perché a un certo momento la penna ha un valore fallico. Non faccio la faccia per me, è proprio dice. Inibizione, sintomo e angoscia. Il pene lascia cadere le gocce di sperma e la penna lascia cadere l'inchiostro che va sulla carta. Sulla carta qui non c'è niente. Nel senso che c'è niente, prima non c'era niente. Adesso ci sono le gocce di sperma, quindi che sono niente. Capito? Non è vero. E se uno dice però comincia a pensarci troppo alla funzione sessuale, però è certo, per lo più istintivo. E se uno soggiace alla penna, non scrive più. Su questo concetto del soggiacere alla penna potremmo avere il tempo per fermarci, ma c'è una pagina di Camus meravigliosa di uno che aveva preso una pagina, però gli sembrava che la pagina non fosse, e allora la riscrive, la corregge, la riscrive, poi la riscrive, la riscrive, e a un certo momento comincia a pensare che la numero 15, la redazione numero 15 fosse la migliore, no? Con uno che era diventato suddito della penna. Allora forse al di là delle parole, imponendo loro delle condizioni preliminari, sono queste. Ti posso cacciare via quando voglio, diversamente dalle cose della vita. Ecco la libertà euforizzante che aveva scritto. Posso dire che lo guardò con occhi molto intensi oppure con occhi intensi. Eppure posso dire, ma perché devo dire? Lo guardò in modo opaco. Posso dire tutt'altra cosa. Sono un Dio. Posso cambiare le cose come voglio. E quindi Le condizioni sono, mi sono posto al di là delle parole, imponendo loro delle condizioni preliminari, e volendole chiamare non per caso, cioè non per caso, ma perché a ogni parola ho pensato, quella parola sta bene lì, non per caso, questa è la letteratura razionale, no? Il soggetto, cioè, agisce in me ma rimane libero, senza legarmi ad alcuna di queste parole. Questa lo dici, lo dirà dopo, questa lo dici. Quando noi crediamo, a volte ci capita di mettere una bella. Quando facevate la scuola, facevate i temi a scuola, la frase che veniva fuori era particolarmente bella. Era l'impulso, questa non la calma. Ecco, lì comincia il guai. Quando tu cominci a ritenere la tua frase insostituibile. E invece bisogna scrivere avendo, come dire, avendo due cose. Avendo bicipiti, perché si scrive con i muscoli, ma sapendo nuotare al tempo stesso. Se tu sei rigido in acqua, vai a fondo. Bisogna che tu sia morbido, cioè bisogna che tu abbia muscoli, ma al tempo stesso sia morbido. Quindi devi essere disposto a cambiare tutto, a cambiare la frase, a cambiare la frase, a cambiare il pensiero. A cambiare questo. Una delle cose più interessanti del pensiero di Taylor è che uno scrive ed è convinto che sia una cosa bellissima. Non puoi giudicare con l'errore. Non è possibile. Non è possibile. È come certi piatti in cucina, non li puoi giudicare, devi aspettare un po'. Se non devi lasciarlo lì, devi lasciare lì il pensiero, devi lasciare lì la frase. E poi devi fare altre cose. Poi devi tornarci dopo. E dopo, se funziona, va bene. Flaubert diceva, bisogna che le cose che scriviamo le leggiamo ad alta voce. Ma ad alta voce, e più la voce è alta, più funziona. Perché? Perché vediamo che se regge ad alta voce vuol dire che il ritmo c'è. Se tu leggi sussurrando, non capirai, anzitutto sei fatto delle cacofonia, l'interazione, ripetizione. Avete capito? Ecco cosa vuol dire porsi al di là delle parole. È quello che è importante di tutto questo, senza legarsi ad alcuna parola. Senza credere che una di queste parole sia necessaria di mutare poco. Ecco, questo è il giudizio che possiamo avere. Nella vita noi siamo afflitti dal concetto di necessità. Il papà, la mamma sono necessari. No, l'amante è necessario. Se non c'è l'amante, come cazzo vivo? Questo è il concetto. Se non c'è chi mi protegge, ma le parole, tu, puoi fregare. Tasto cancer del computer e la parola non c'è più. E anche abbastanza scontato, quando tu scrivi una pagina, certo, va bene. E adesso il vero potere mio sarà quello con un trattino di penna di cancellare. Ma come? Eh sì, perché ho. Perché non mi piace più. Questo non può accadere per un'automobile, no? Non ti piace più l'automobile, almeno per una viaggio. Soldi a palazzo, arrivi, prendi la tua, non mi piace più questo proprio. La, no, una signora mia amica con cui ho giornalità per te. Andiamo a pranzo fuori ed è sempre una grande signora. L'altro giorno è successo questo piccolo dettaglio, no? Che era un piatto con ospiti, insomma era un piatto che portava lì, io prendo pure il tempo. Ma a un certo momento non mi piace più. Ma io stavo a terra. Ma come sarebbe? Ma non ti piace più. Ma come sarebbe? No? Ecco, poi stato indotto da mini esecuzioni, tutto quanto, a riconsiderare le mie dimensioni. No, mi colpiva questo fatto che mi permetteva di dire di no, come uno torna a casa. No? Lei dove abita? A Cinecittà, ecco, com'è la casa sulla bella? No, ma vediamo che lei è a casa, papà, che cosa lo fa? Papà, prego lo decido. Che questa casa non mi piace più. Andiamocene via domani. Ecco, guarda che dice. Non lo so, la prendo in considerazione. Ma il tatto del computer cance e non c'è più tempo. Ecco cosa vuol dire conservare la indipendenza dalle proprie parole. Ci vediamo, allora vogliamo recuperare varie ore, lo sapete, vedremo quest'anno. Adesso vediamo due. Thank you.